Dana, ho ricevuto notizie da Mr. Harper. È stato chiamato al capezzale di un amico che è molto malato. Mi ha mandato questi fiori. Ottima scelta farlo. Non approvo i giovani che rifiutano un invito a cena all'ultimissimo minuto. Permettetemi di prendere la carta e la scatola, Mrs. Pringle. Ah, è terribile. Dopo che hai preparato tutto così meravigliosamente che nessuno sia ancora arrivato. Ed è già così tardi. Come sta la cuoca? La cuoca è furibonda, come sempre, signora. Sono contenta di sentirlo. È come un'attrice. Maggiore la rabbia, migliore l'interpretazione. Finché ci serve una buona cena, non importa quanto imprechi. Voi altri dovete solo togliervi dai piedi. Dov'è Gustav? Sono spiacente di dirvelo, signora, ma c'è una bufera così terribile che Gustav deve spazzare di nuovo il marciapiede. Oh, povera me, certo. Avrei dovuto ordinare un tendone. Ma chi si aspettava una tormenta come questa? Mamma, ecco i segnaposti. E la disposizione. Li posiziono? Sì, Elen, tesoro. Io salgo su da tuo padre. Sai che è proprio senza speranza con le cravatte. Ah, e Dana... Dana, togli un piatto. Togliere un piatto, signora? Oh, signora, certamente. Non vorrete essere in 13 a tavola? A 13? Per questa hai ragione, 13. Non possiamo assolutamente cenare in 13. Tutta colpa della negligenza di Mr. Harper. Amico malato, figuriamoci. È solo uno di quegli uomini distratti che non risponde mai per tempo agli inviti. Però i suoi fiori mi obbligano a perdonarlo. Adesso, vedendo il guaio in cui ci ha cacciati, 13... Chi possiamo chiamare all'ultimo minuto? Forza, Elena, aiutami a pensare. C'è sempre zio George. Ma non si capisce mai che cosa pensi. Miss Morgan, signora, racconta sempre un paio di barzellette. Ma certo, Dunham. Molto arguto da parte tua. Pronto, centralino? Lakeview 5971. Sì. Elena, tesoro, i tuoi capelli sono troppo piatti. Smuovili, smuovili. Ah, vieni qui. Mr. Morgan? Buonasera, sono Miss Pringle dall'altro lato della strada. Sì, quando rientra Mr. Morgan, per favore, gli dica di richiamarmi immediatamente. Vorrei cenasse con noi questa sera. 10 minuti? Lo sta aspettando? Beh, mi faccia richiamare immediatamente. Ah, e se non fa in tempo, cosa farò? Mamma, ma io non devo per forza sedermi al tavolo. È la tua festa. E poi sono tutti sposati e più vecchi di me. Non ti ho forse messa vicino ad Oliver Farnsworth? Vale milioni, Elen, milioni. Sicuro a me non ne darà nemmeno uno. Non può sposarti? Non stai forse cercando qualcuno che vada bene per te? Beh, io ti sottopongo ogni buon partito che posso. Potresti anche fare il resto da sola. Mamma, non ha senso. Stai cercando di farmi sposare con chiunque sia importante come lui. Mi spaventa a morte. Perdo la lingua. Lo temo come potrei temere il principe del Galles. Il principe del Galles? Ah, cosa non darei per avere il principe in casa mia. New York ha perso il cuore con lui. Proprio l'altro giorno stavo dicendo a Mr. Farnsworth che darei qualunque cosa per avere il principe qui. La mia posizione sociale sarebbe definita per tutta la vita e ho una così grande reputazione di padrona di casa. Ah, povera me, sta suonando il telefono. Salve, Miss Sedgwick. Sì, sono Miss Pringle. Cosa? Finiti in un cumulo di neve? Non riuscite a trovare un'altra macchina? Ah! Bene, la vedova non può venire. Questo ci fa rimanere in 12. Togli 2 piatti, Dunham. Oh, mia cara, sono addolorata. Ma come faremo senza di te? Ma davvero hai provato in tutti i modi? Oh, mia cara, sono in lacrime. A presto, cara. Bene, sono contenta che abbia rinunciato. Centralino, Lakeview 5971. Dunham, con 2 ospiti in meno possiamo risparmiare 2 cocktail e almeno 4 bicchieri di champagne. Pronto? Mr. Morgan è già rientrato? Bene, non gli dia il messaggio riguardo all'attraversare la strada verso Miss Pringle. È troppo tardi, ha capito? Ah, bene, in ogni caso ho invitato Clem, ricambiato la cortesia e oltretutto ho risparmiato il mio preziosissimo champagne. Gli alcolici stanno finendo, signora. Cosa tipica tra il proibizionismo e il troppo divertimento di questa casa. Ma mamma, se ci sono solo 12 invitati, papà non potrà sedersi a capotavola. Ma deve sedersi a capotavola. Sembra così indecoroso che il padrone di casa sia relegato in un lato. Non c'è nessun altro modo. Deve esserci una donna agli estremi di ogni capotavola. Ma certo, me ne dimentico sempre. Ovviamente 12 è un numero impossibile. Oh, Elena, non voglio mettere nessuna di queste donne a capotavola. C'è Miss Darby, una tale strega, e di certo... Rispondi, Dunham. Pronto? Casa di Mrs. Pringle. Un messaggio? Sì, signore. Cosa, signore? Miss Darby? Il dottore dice che suo figlio ha la varicella. Varicella? Elen! Mamma! Elen! Dunham? Signora, Sì, signore. Mr. Darby manda le sue scuse, ma stando al fatto che è una malattia contagiosa, i signori Darby si sentono in dovere di rifiutare l'invito, e così anche i loro ospiti, i signori Mr. e Mrs. Fleetwood. Fuori quattro. Quindi siete solo in otto. Presto, i piatti, Dunham. Non è che conosciamo qualcuno da invitare all'ultimo momento? Gli Atwoods. Non servono mai cocktail quando fanno degli inviti a cena. Non posso di certo permettermi di invitarli a bere i miei. I Greens. Lei non è abbastanza interessante. Il signor Conley. Non fa mai un invito a cena dopo tutte le volte che l'ho invitato. Esther Lonley. Elaine. Non allo stesso tavolo con te e Oliver Farnsworth. Lei è troppo più bella e più intelligente. Dov'è la nostra agenda? I Tappers. Per il cielo, Elaine, sei in famiglia. Cosa che ci riporterebbe a 14, quindi papà potrebbe sedersi a capotavola. Bene, prova con loro. Io dico a tuo padre di intrattenere il salotto. Ridgway 9325, qui Elaine Pringle. Con quale Tapper sto parlando? Oh, Ella, ciao. Spero che tu non abbia già finito di cenare. Abbiamo predisposto un party qui, ma all'ultimo hanno rinunciato tutti. È già per la tormenta. Non è che tu e la tua famiglia potresti girare l'angolo e venire a mangiare con noi? Io e la mamma pensavamo di conoscervi da abbastanza per chiamarvi all'ultimo. Potresti? Oh, bene. Sei piatti, Dana. Cosa? Oh, bene, ma... Oh, Dana, chiama mamma presto. Sì, certo. Divino, ma certamente sì, mia cara. Va bene. Oh, buon cielo, adesso cosa ho appena fatto? Cosa succede, Len? Cosa? Adesso l'ho fatta grossa, l'ho fatta veramente grossa. Ma non posso tirarmi fuori, non posso. Solamente tu, mamma, non c'eri. Io perdo sempre il lume della ragione, mischio tutte le cose. Non tenerci sulle spine, cosa è successo? Ho invitato Ella e la sua famiglia e lei ha accettato, ma poi ha detto che avevano due ospiti e se sarebbe stato conveniente, se andasse bene per noi. E ovviamente io le ho detto di sì e adesso siamo in 16. 16? Ma signora, il tavolo non è così lungo. Elena, è veramente tipico di te. Nessun tatto, nessuna coscienza delle cose del mondo. Se io fossi stata al telefono avrei gentilmente detto che il mio tavolo... Ma non eri al telefono, devi prendere questo tipo di messaggi da sola. Lo sai che perdo sempre il lume della ragione. Ma i piatti, signora, abbiamo solo 14 piccioni in salsa. Non ne mangerò nessuno. Non devo essere screditata, dobbiamo fare il nostro meglio e inserire un'altra asse. Mamma, non ho bisogno di sedermi al tavolo. Tu ti siederai esattamente al fianco di Oliver Farnsworth e adesso non voglio più sentire un'altra parola in merito, ma, chiaro? Ma non possiamo farceli entrare senza tutto questo lavoro dell'asse. Se avviciniamo i piatti e le sedie... Probabilmente sta dimenticando che il signor Tapper pesa qualcosa come 250 libbre e che la signora Conley non ha il girovita. Non si può fare. La cuoca è furibonda, signora. Dice che ha preparato solo per 14. Beh, dille che dovrà preparare per 16, di aprire i barattoli di zuppa e le verdure. Ma le coppette di gelato e le formelle di gelatina? Farò finta che non mi piacciono. Io farò finta di essere a dieta. Ma io veramente, mamma, non devo sedermi al tavolo. È necessario. Il telefono. Non rispondere. Adesso cosa mi sta facendo diventare pazza? Pronto? Sì, sono la signora Pringle. Oh, Jessica! Cosa? La tempesta? Il tuo raffreddore è troppo pericoloso. Oh, Jessica, sì, ma tuo marito ha ragione. Sarebbe eccessivamente folle chiederti di uscire con questo tempo. Ma sì, mettiti una pomata di mostarda, una boule calda, riposati, mia cara. Ah, sono così dispiaciuta. A presto, cara. Ah, ecco, questa è meravigliosa. Adesso siamo solo 14. Ma i segnaposti sono tutti sbagliati. Solo 6 verranno di quelli che erano stati invitati all'inizio. Dovrei fare un nuovo piano, mamma. Ah, dammi qui. Che confusione. Ho passato ore sullo schema. Così tanto dipende dal disporre gli ospiti in modo armonioso. Ah, e Dunham sta suonando il campanello della porta principale. Ho detto a Annie di rispondere al posto tuo. Però vai, sbircia dal camerino e dimmi chi è. Tu, strumento infernale, cosa vuoi da me adesso? Cosa? Pronto? Mr. Farnsworth? Mr. Oliver Farnsworth? Ah no, siete la sua segretaria. Lui vi ha incaricata di porgermi le sue scuse. Atto Un affare importante per Boston. Ma... ah, come osa! Come osa! Così, all'ultimo momento. Nessun riguardo per i sentimenti dell'ospite, nessun riguardo per gli sforzi che lei fa per organizzare un divertimento serale. E avevo programmato una così buona cena e lui aveva promesso che sarebbe venuto. Affari. Non ci credo. Non voleva uscire. Temeva di congelarsi nella tempesta, come se non avesse una mezza dozzina di mimosin che lo portano fino alla porta. Egoista. Questa è maleducazione bella e buona. E vale milioni, milioni. Sono un buon partito per te, Helen. Ed io ero convinta che dovessi incontrarlo e sederti vicino a lui al tavolo. E non so quando potrò darti un'altra occasione come questa. Sono furiosa, non gli parlerò mai più. Non sarò ingannata così. Magari aveva davvero un affare, è stato chiamato. E io sono una delle ospiti più importanti di questa città. Le persone smaniano per ricevere i miei inviti e tutte le mie serate sono un successo. Beh, insisto perché continuino ad esserlo. Non posso sopportare un fallimento, non avrò un fallimento. Era il mio ospite più importante, un tale uomo di mondo, così importante dal punto di vista finanziario. E lui non viene, sono furiosa, furiosa. E tutto per questa maledetta tormenta. Ora non dovrò sedermi a tavola. Se lui non viene, fa sì che siamo in 13. Vai a letto, vai all'asilo, ti manderò latte e crackers. Mamma, non è colpa mia se aveva affari fuori città. E invece sì. Se tu avessi un pochino di più di iniziativa e non fossi così sommessa e facessi qualcosa da sola, avrebbe sentito parlare dei tuoi pregi dagli altri uomini e sarebbe incuriosito anche lui di incontrarti. Che famiglia che ho! Nessuno che mi aiuta come le mie ambizioni. Vai a letto, sicuramente non ci sederemo in 13. Togliti dalla mia vista. Era il signor Morgan, signora. Il signor Morgan? Ma se avevo telefonato per dirgli di non venire. Potrebbe non aver ricevuto il secondo messaggio, signora, visto che ho sentito dire al signor Pringle quanto fosse stato felice che voi gli abbiate telefonato per invitarlo. E questo ti riporta a 13. Sempre che tu non voglia che io me ne vada a letto. Oh, ma certo che non voglio che tu te ne vada a letto. Ah, siamo da capo, 14, Dunham. Gli aperitivi sono pronti, signora. Annie mi ha detto che c'erano diverse macchine che cercavano di farsi largo nella neve. Ormai è tardi. La cuoca già sta imprecando perché la cena si fredda. E io non rispondo di certo. Dovrei essere io a dirlo. Pronto? Ah, sì, signora Tapper. Sì, signora Tapper. Ma voi adesso dovete venire. Ormai vi aspettiamo. Ma sì, vi aspettiamo tutti e 8. Vostra figlia ha detto alla mia che avevate ospiti e siamo ben lieti di riceverli. Ma adesso siamo davvero pronti per ricevervi. Ma ogni piatto è pronto apposta per voi. Ma certo che vostra figlia ha il permesso di invitare i vostri ospiti. No, ma 8 non sono troppi. Abbiamo una sala da pranzo grande. Ma sì, davvero, mia cara, ma è sciocco da parte vostra. Ma perché, mia cara, perché? Questa poi, la signora Tapper è assolutamente furiosa con Ella per aver fatto menzione degli ospiti e dice che Ella non ha per niente tatto e per nulla al mondo porterà qui 8 persone visto che eravamo d'accordo per 6. Così adesso sta lasciando a casa Ella e Harry e stanno venendo solo in 6. Togli 2 piatti, Dunham, saremo in 12 alla fine. Ma se siamo in 12, papà non si potrà sedere a capotavola. Di questo passo ne uscirà pazza. Giuro che non starò mai, mai più dietro alla gente a chiedere se viene o no. Loro accettano, poi rifiutano, poi ricettano, poi affiutano. Mi fanno soltanto imbestialire. Questa è l'ultima cena che do, l'ultima davvero. Ed è un fiasco totale. Gente a caso, ammassata tutta insieme. Quando avevo pianificato tutto in maniera così perfetta. E adesso come li disporrò? Come li dispongo? Se metto il signor Tapper e la signora Conley, o il signor Morgan dovrebbe essere... Ma è impossibile. Farei molto meglio a mettere i loro nomi in un cappello e lasciarsi scegliere la sorte. Mai più. Io ho chiuso con la società, le feste, gli amici. Me ne levo le mani. Si perderanno la mia compagnia. Avrebbero dovuto comportarsi con maggior riguardo nei miei confronti. E dopo questa me ne vado a vivere per conto mio. Sarò solitaria, enigmatica e completamente asociale. Mi farò le mie bevute da sola invece di offrire gratis a tutta la città. Io ho chiuso, chiuso con uomini come Oliver Farnsworth, che non importa quanto siano ricchi, non sono niente senza cortesia e considerazione degli altri. Hanno soltanto i loro affari, su e giù dei treni. E non vogliono venire? Non vogliono incontrare una dolce e tenera fanciulla? Non la vogliono sposare? Beh, allora lui non ti merita, tu non lo sposerai e non voglio che tu lo sposi. E se cerchi di scappare, io ti fermerò. Sì, perché maledetto sia Oliver Farnsworth, non sarà mai più ospite gradito in casa mia. Uomo avvisato, mezzo salvato, io odio Oliver Farnsworth. Un messaggio per voi da Oliver Farnsworth, signora. Un messaggio da Oliver Farnsworth? Sì, signora. Ci sono due gentiluomini sconosciuti di sotto all'ingresso. Hanno portato questa lettera. Uno ha detto di essere il segretario di Oliver Farnsworth. Tutti gli altri ospiti sono di sopra in salotto, signora. Ne ho contati 12 in tutto, compresi voi, il signor Pringle e la signorina Helen. Ma i due gentiluomini di sotto, signora, stanno aspettando di sapere se possono cenare con voi. Uno dei due ha un viso che mi è molto familiare, signora, ma non riesco a focalizzarlo, anche se sono sicurissimo di averlo visto da qualche parte. Oh mio Dio, sei sicurissimo di averlo visto da qualche parte? Oh mio Dio, Helen! Mamma! Helen! Mamma! Helen? Danam? Signora? Helen! Mamma! Danam? È il principe dei Galles! Il segretario ha detto che voi avete riagganciato il telefono o che la chiamata è stata interrotta. Giusto quando stava per dirvi che il signor Farnsworth aveva saputo che la bufera impediva a sua altezza di mantenere un impegno che aveva in città. Quindi il principe del Galles sta aspettando di me nel mio ingresso e da me un invito a cena. E allora saremo di nuovo in 13. C'è anche il segretario di Oliver Farnsworth, signorina, fa da guardia del corpo. Ma certo, il segretario, Helen. Saremo in 14 a cena. Servi pure gli aperitivi, Danam. Ogni ospite potrà sedersi dove più gli aggrada. E il principe offrirà il braccio a me. Ma quindi, mamma, non è forse un bel gesto da parte di Oliver del signor Oliver quello di mandare il principe del Galles in sua vece? Non ho sempre detto che Oliver Farfa... Che Oliver Farnsworth è il migliore degli uomini? Penso proprio che il signor che il signor Oliver potrebbe proprio piacermi. Ma che bambino ingenuo. Basta adesso con il signor Farnsworth. Ora è tempo che tu ti faccia piacere il principe. Grazie a Dio c'è stata questa bufera. Si pronuncia Farnsworth.